Alice Cooper. Vi chiedo scusa, lo so che è fastidioso sentire uno che canta male sopra una canzone, ma è un po' colpa di Spadino che mi accende il microfono senza che io chieda e venga acceso, e secondo è che non riesco a resistere al falsetto di scusa. Scusa forever! Dedicata a tutti gli amici che stanno entrando a scuola e in particolare al gruppo d'ascolto Az. Ora mi interrogano in mate. In mate. Resisti. Ragazzi, è così che vi vogliamo. Presenti. A domanda rispondete. Abbiamo lanciato un sondaggio pro o contro Halloween. Ho una macchina di SMS che inizia a fumare. Non vorrei... Allora, siete schierati quasi al tipo al 98%... tutti compatti. Non vi dico in quale delle due scelte, perché non voglio interferire su altri messaggi che magari qualcuno vorrà mandare al nostro 335 100 7777. Entro il termine delle due ore poi vi dico se eravate a favore di Halloween oppure contro in ogni caso, perché noi di Pane, Burro e Rock and Roll dobbiamo essere contro. È qui che si costruisce insieme la filosofia, l'atteggiamento di Pane, Burro e Rock and Roll. Pochi minuti alle 8, tra pochi istanti i nostri opinionisti Topo Rogna e Topo Frigo, cavie da esperimento, poi il film della settimana, insomma ne abbiamo di robaccia da fare. State con noi. Lo barami. Cosa stai leggendo? Si chiama Topolino Rogna, è un fumetto che leggono gli umani. E allora che cazzo c'è da ridere? Guarda! Ma cosa c'è da ridere? C'ha le orecchie nere! E allora? Sembra Topo Scalogna dopo i crash test dell'altro ieri. Aspetta, ma è vero? Un po' è vero. Topolino! Guarda! Povero Topolino però, chissà se anche lui c'è rimasto sotto come Scalogna. Beh, pensandoci hai ragione. Solidarietà a Topolino! Maledetti umani, strapazzatevi le vostre di orecchie. Orecchioni.